Il punto di Stefano Folli. La legislatura è appena nata e già su di essa si allungano molte ombre, forse troppe. Lo stallo in cui oggi si apre il Parlamento è figlio di elezioni che hanno prodotto tre blocchi forti ma minoritari e soprattutto in apparenza inconciliabili fra loro. Ma la paralisi è anche il prodotto dell'ostinazione con cui il Partito Democratico ha inseguito un accordo con i 5 Stelle di Grillo, i quali hanno giocato fino a stamane come il gatto con il topo. Si poteva tentare un'intesa parlamentare e non politica con il centrodestra, ma il partito di Bersani finora non ne ha mai voluto sentir parlare, per ragioni, diciamo così, morali. E da parte sua Berlusconi non ha certo agevolato un eventuale accordo. Risultato: scheda bianca. Ora però i nodi vengono al pettine. Entro domani le Camere dovranno avere in ogni caso i loro presidenti, pena una grave instabilità istituzionale.